Certe volte fai delle scelte nella vita e poi non sai dove va a finire. Scandicci, scandicci. Lo vuoi fare sto scambio, Henry? Lo facciamo sto scambio, Rashi. Lo vuoi fare sto scambio, Henry? Lo facciamo sto scambio, Rashi. Lo facciamo sto scambio, Henry. Lo facciamo sto scambio, Rashi. Conseguenza di una guerra chimica. Urlano cani in chiesa, maestri della mimica. Wow, Carmina Burana, resteremo i soliti con o senza filigrana. Perché un cuore di fuoco non si spende per così poco. Io ho scelto la vita e tu hai scelto il gioco. Crisi familiari, per me, rami fiscali, per investire sui funerali dei più famosi stilisti. Magari buono il compleanno, scemo, il quarto round, light list, più underground. Firenze 2000, gente in fila, insieme a te che leggi, Eva 3000. Povero stronzo che schiva ogni mio colpo. Ogni mia colpa è spiata. Prenderò ogni mazzata che mi è arrivata. Tra la folla con la stata, sotto i colpi del monarca, la mia fatta in barca. Chili di merda a marcia, ogni giorno che passa scansa. Frasi della minoranza scansa. Ipotesi in agguato, schiva i miei colpi, i miei colpi scansa. Se non vuoi il culo rotto, adeguata al mio standard. Rashid, non sai che il suolo apre carestie e strade già in base. Casi spersi di nazi in Austria già con la soda caustica. Aider minimi di tristi sollicisti ascoltando i gitti dei commissi. Ragazzi teppisti a razzi invasi da donne. Intanto i portaborsi sono missionari. Missione sodalizi socialisti di logge massoniche. Leggi le lacrime di un salice quando è già polvere. Leggo nel tuo pensiero, so già che l'ultimo sarà il tuo primo segreto. La pianesa aria nella battaglia. Troppi forestieri sognano già Alessandria. Ognuno ha la sua mandria, ognuno ha la compagna. Nessuno capirà questa entropia sconvolge. Cambia. Troppi strozzi viaggiano sempre frecce le terra. Perché in uno spazio dove il cielo resta nel pianeta Terra. Un amico si sa, un amico non ha. Resta se vive nell'aria di chi ha il cuore di fuoco, la forza di un uomo. Resta l'ultima speranza prima di essere potuto. E un amico si sa, un amico non ha. Resta se vive nell'aria di chi ha il cuore di fuoco, la forza di un uomo. Resta l'ultima speranza prima di essere potuto. Siamo giovani cuori, cuori di fuoco. Ho visto che spesso il mio stesso onore mi ha messo nel gioco. Credo che quello che vedo mi offenda. In guerra contro gli abitanti della terra. Ho saputo che si uccide per poco. Uomini blu, qualche volta lo fanno per gioco. Giovani cuori, non voglio sentire ragioni. Sanno le loro ragioni, sperano in giorni migliori. Fuoco, lo sanno che fanno. Sicuro lo sanno, sanno che li stai cercando. Hai il cuore in gola ragazzo, col cazzo che ci prenderanno. Sanno che ci hanno già perso. Facciamo esplodere il culo. Guerra d'orgoglio per il cuore di fuoco. Siamo nati così, siamo vissuti così e moriremo così, però un giorno è così. Di ragazzo qualunque, d'età media su 18, come ci state sul mondo? Semplice, ti risponderanno che il 30% sta sopravvivendo. Tutto il resto è sordito o preferisce non saperlo. Certo che no, invento io no. No, non so che fai. Dico torto sì o no, io così non ci so. Ovvio, dico torto sì, distempi però lo capisco tu no. Hai coraggio, vivi, sopravvivi sei codardo. La vita è strana, non pensi, ti brucia per l'assaggio. Giuro che a volte sento sangue che mi bolle. Giovane incosciente, la mia gente ribelle. C'è un solo Harry, un solo Rashi, un solo Vega, un solo Chris, un solo Mashi. I nuovi raggi sono culi bianchi. I nuovi raggi sono sti ragazzi. Ogni giorno è così. Spacchiamo le cene, siamo gente ribelle. Un amico si sa, un amico non ha. Resta se vive nell'aria già di chi ha il cuore di fuoco, la forza di un uomo. Resta l'ultima speranza prima di essere potuto. E un amico si sa, un amico non ha. Resta se vive nell'aria già di chi ha il cuore di fuoco, la forza di un uomo. Resta l'ultima speranza prima di essere potuto.